Pulcinella e Colombina, stanchi di essere appesi per la testa a un filo, decidono di abbandonare il gran teatro di marionette, diretto da Fernando Malvasia. Fuggiti dal paese di Te lo domando, le tre marionette vanno incontro alla vita, senza fili, si intende. Radio Città Fujiko presenta Marionette in libertà. Massimo Vitali legge Gianni Rodari. Capitolo quarto. Le marionette, come ora vi insegno, non hanno sempre il cuore di legno. Allo spuntare dell'alba rosata, la comitiva era quasi asciugata. «Il sole spunta!» disse Arlecchino. «Facciamo noi pure uno spuntino?» «Idea geniale!» fa Pulcinella. «Quanti soldi avete in borsella?» Ma non avevano i meschini né borselle né taschini. «Per colpa del sarto, malvagio, distratto, non salto fuori un soldo matto!» «C'è almeno una cuoca, Colombina!» «Sì, ma cosa cucino senza cucina? Manca la pentola e per finire manca anche qualcosa da bollire!» In cerca di cibo da cucinare si misero dunque a camminare. «E cammina, cammina, che tippete tappe, che tippete tappe, cammina, cammina, che tippete tappe, che tippete tappe!» La strada era lunga, il sole scottava, ma da mangiare non si trovava. «Quando suona mezzogiorno, chi ha appetito si guarda intorno!» La comitiva intorno guardò, ma la fame non passò. Quando suonarono le sette, fa la minestra le donnette, ma i tre non videro, a manca o a destra, né le donnette né la minestra. Allo scoccare delle otto, ebbero fame di risotto. Alle nove e alle dieci, ebbero fame di pasta e ceci. I fattori variavano spesso, ma il prodotto era sempre lo stesso. Camminarono tutta la notte sognando pietanze, sia crude che cotte. All'alba, davanti a una casetta, videro un merlo in una gabbietta. Pulcinella propose tosto di cucinare il merlo arrosto. «E aggiungeremo, disse Arlecchino, un poco di salvia e di rosmarino!» Il merlo era un merlo, però non vuole sentir parlare di casseruole. «Amici cari, scusate un minuto, vorreste mangiarvi un detenuto? A parte il fatto che non sta bene, digerirete poi le mie catene?» «Con la fame che c'è in giro, digeriremo anche dei ferri da stiro!» «Ma per favore, per carità, ridatemi invece la libertà! Da 7 mesi son prigioniero d'un mugnaio assai severo! I miei compagni volano lieti sui campi, sui prati, sui frutteti! Al vecchio nido nel bosco amato, abbiate pietà di un esiliato!» Colombina a questa canzone già sospira di commozione. E Arlecchino, così per caso, si voltò a soffiare il naso. «Amici, apritemi questo sportello! Il mondo è grande, il mondo è bello!» Pulcinella, che aveva buon cuore, non poté resistere a tanto dolore. Si scordò la fame, si scordò la rabbia e aprì la porta della gabbia. Non ce la fanno quasi a vederlo, da come scappa veloce il merlo. «Addio ragazzi e grazie di tutto, il bene fatto darà il suo frutto!» «Addio buon arrosto, tu che lasci orfanella la nostra povera padella!» Eppure, strano, nessuno dei tre sentiva più fame. Chissà perché.